La Costituzione è una legge speciale, perché la Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, cioè sono le regole di base della nostra vita, le regole che ci rendono cittadini. Perché prima della Costituzione, prima del 2 giugno 1946, noi non eravamo cittadini, eravamo sudditi. Ascoltiamo l'articolo, letto da Gaia Messer-Klinger, e poi il mio commento. Perché la Costituzione dobbiamo conoscerla per essere cittadini, cittadini migliori. Articolo 23. Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge. L'articolo 23 rappresenta un'altra garanzia classica dello Stato liberale, cioè il fatto che nessuna prestazione personale o patrimoniale possa essere imposta se non in base alla legge. E quindi imposizioni personali, ad esempio il servizio militare, imposizioni patrimoniali, ad esempio tasse, tributi e balzelli vari, devono essere sempre basati sulla legge. Ma questa garanzia cosa significa? È la garanzia detta della riserva di legge, cioè il Costituente in tanti articoli, in decine di articoli, prevede e dispone che determinate cose possano accadere soltanto dove c'è la legge del Parlamento. Per esempio, la libertà personale può essere limitata solo in base alla legge, il domicilio ci possono essere perquisizioni e ispezioni solo se previste dalla legge, la libertà di circolazione e soggiorno, la libertà di corrispondenza. C'è sempre la garanzia della legge, come qui nell'articolo 23. Dobbiamo ricordare che la legge è la massima espressione della volontà popolare, la loi expression de la volonté générale, l'idea proprio illuministica, rivoluzionaria, che l'idea del popolo viene trasferita mediante rappresentanza al Parlamento e quando il Parlamento approva una legge sta approvando la volontà generale di tutti. Ecco allora che la garanzia di prevedere determinate cose solo per legge significa che siano decise dai rappresentanti dei cittadini, ma anche che non possa semplicemente la pubblica amministrazione con proprie decisioni mutare gli orientamenti che devono essere garantiti dalla legge. Nell'articolo 23, ancora sulle prestazioni dei cittadini personali e patrimoniali, serve la base legislativa, perché deve essere il Parlamento che è al centro del sistema, al centro dell'ordinamento statale, a disciplinare puntualmente le garanzie, le prestazioni. Questa è una riserva di legge, la massima garanzia che sia il Parlamento a intervenire sulle materie più importanti.